c'è che si sa che si desidera ciò che si vede. E quando vedo lei, hey, penso cose che non ci si crede. Tipo sai cosa mi fai, ma ciò che penso non si dice. Ma te sarai felice di dirlo sulla lavatrice, mentre centrifuga e dopo un po' più là sull'asciugatrice. Ehi, hey, te lo direi al cinema nell'ultime poltrone e nel paragone. 9 settimane in mezzo sembrerebbe un film di Verdone o di Villaggio. Te lo direi facendo l'idromassaggio o in un sottopassaggio. Baby, te lo direi in macchina sotto l'autolavaggio. A Roma, a Parigi, a New York, nella casa degli specchi, a Luna Park, sul lungomare di Riccione, su un tandem, a Londra sopra il Big Ben. Sì, te lo direi così. Penso a te ti va. Te lo direi così e cos'ha mille modi di fare. E così e cos'ha quando penso a te ti va. Te lo direi alla mattina tra brioche e cappuccino in piscina, persino sul trampolino bambina, quando andavi i fiori sul balcone, in un bar pieno di persone sopra il bancone, in treno, in aeroplano, in barca su quel ramo del lago di Como, poi a Milano in cima al Duomo. Baby, te lo direi a Napoli sul vulcano, dentro la casetta dei puffi al mini golf, e nel confessionale sarà il tuo padre Ralph. Guarda tu, te lo direi da fare imbarazzare Belzebù. Guarda il mio menù, oh su, ricette per antidoti ai tabù. In più, baby, non è il mio stile annoiare le ladies. Vedi che a stomach lady non manca mai la fantasia, e su due piedi ti potrei portare via, magari a dirtelo in stile casa nella prateria, in una fattoria, nel fienile o in funivia, in montagna, all'università di Bologna, nell'aula magna. Mica male, sarebbe originale dirtelo facendo un bagno termale a San Pellegrino, o in un camerino di un grande magazzino, o mentre fai shopping, oppure dirtelo facendo bungee jumping, e la mia bocca sul tuo ombelico sarebbe il piercing. Sì, te lo direi così e cos'ha mille modi di fare. E così e cos'ha quando penso a te ti va. Penso a te ti va. Te lo direi in campi deserti, in prati verdi, in spazi aperti, in un furgone porta merci durante il derby, nello stadio, e tipo il video The Cure Close to Me, nell'armadio. Te lo direi in discoteca, in centro pista, in biblioteca, nella sala d'attesa del dentista, in salita o in discesa, in piedi o distesa, mentre fai la spesa, al supermercato, sull'autobus affollato. Te lo direi su un dirigibile, poi su un sommergibile. Te lo direi a Messina in canotto, sullo stretto, sul cavallo, prima il trotto, poi il galoppo, forse troppo. Era un giochetto, per me sarebbe il massimo anche dirtelo in un letto, ma ed è per te ti pa, solo per te ti pa che. Sì, te lo direi così e cos'ha mille modi di fare. E così e cos'ha quando penso a te ti.